in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei settimanali. Quest'anno abbiamo deciso di fare così, cioè di dedicare il sabato non ai quotidiani, e tanto su tutte le questioni importanti, il terremoto in primis, naturalmente ci sono i GR a potervi aggiornare, o il sito di Radio 24, o il sito del Sole 24 Ore, quindi ci prendiamo questa occasione per guardare un po' quello che ci siamo persi nella scorsa settimana. E cominciamo da 7, il magazine, il supplemento del Corriere della Sera, che dedica la prima pagina a un incontro tra il grande imam della moschea Al-Azhar del Cairo, Ahmad Al-Tayyib, e Papa Francesco. Il titolo è La scelta di Francesco. Il servizio lo trovate all'interno, e la questione naturalmente è quella delle numerose dichiarazioni che ha fatto il pontefice sulla necessità che secondo lui aumenta di giorno in giorno, di non prendere i fondamentalismi e il terrorismo fondamentalista come una guerra di religione, perché in realtà le grandi religioni monoteiste, e non solo, si possono e si devono parlare, e sta già succedendo, come dimostra questo incontro che poi trovate all'interno in un lungo servizio di 7. Molto interessante anche, visto che ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, con il ricordo di Natalia Aspesi, la giornalista della Repubblica, che ormai ha più di 70 anni, non svelo un segreto, lo diceva proprio lei: visto che ho così tanti anni e così tanta esperienza, vi racconto come ho vissuto il Festival del Cinema di Venezia in tutti questi anni, dove ho avuto la fortuna di essere inviata. E anche 7 dedica un lungo articolo alla prossima edizione, che inizia mercoledì 31. E questa prossima edizione del Festival di Venezia è descritta, anticipata da Paolo Mereghetti, il critico cinematografico del Corriere della Sera e di 7, in un articolo che trovate da pagina 34, La libertà di non ospitare sempre i soliti nomi. Kim Ki-duk, la Rene Malik, quindi questi sì che sono nomi famosi, ma anche Chazelle, il quasi esordiente Rona Johnson, Piccioni e i documentaristi milanesi D'Anolfi e Parenti. Quindi un'edizione dove appunto ci saranno molte sorprese. Poi un po' il problema è che chi ha la fortuna di andare al Festival di Venezia può vederli tutti, poi molti magari di questi film, proprio perché non sono di registi famosi, non arrivano nelle sale, quindi noi, diciamo, comuni mortali, cinefili magari, spesso ne sentiamo parlare, li sentiamo o elogiare o criticare, ma poi non abbiamo la possibilità di vederli al cinema. Un altro bellissimo servizio per chi ha un'altra fortuna, quella di magari non essere ancora andato in vacanza e di poterlo fare a breve, resoconto di un viaggio sul treno che corre in direzione selvaggia. Questo è il titolo dell'articolo di Sara Gandolfi, che parla della linea ferroviaria canadese che collega Toronto a Vancouver. È lunga 4.466 chilometri, attraversa foreste, praterie e le montagne rocciose. In un paese grande, pensate, 33 volte l'Italia, dove vivono 35 milioni di persone. Noi siamo circa 60, quindi pensate a che distese incredibili si possono ammirare. Forse il treno, un po' come qui in Europa per esempio il treno che attraversa l'Engadina, il treno potrebbe essere veramente la finestra in senso reale e figurato ideale. Il venerdì il magazine della Repubblica invece dedica la copertina a Jay McInerney, lo scrittore americano, alcuni lo considerano uno dei più importanti scrittori americani contemporanei, e il titolo è The New Yorker, non nel senso del settimanale New Yorker, ma nel senso di il newyorkese, perché tutti i suoi libri, a cominciare da quello che lo ha reso famoso più di 20 anni fa, Le mille luci di New York, sono ambientati appunto nella città. E Riccardo Staglianò ci racconta: da anni l'unica vera protagonista dei suoi libri è New York. Mentre arriva in Italia l'ultimo romanzo, che sarà pubblicato a breve, Jay McInerney, sbarcato dalla provincia e ora re di Manhattan, perché in molti suoi libri questo si capisce, lui credo che bisognerebbe portarlo via con la forza adesso da New York, però è arrivato a New York, è una di quei tanti americani che hanno raggiunto Manhattan appunto, e poi non l'hanno più lasciata. Un articolo molto curioso, visto che si parla tanto di come sta cambiando il mondo del lavoro, sempre sul venerdì, di Giulia Doni, si intitola Sorpresa, in azienda c'è un maggiordomo al servizio degli operai. Ovviamente non è un maggiordomo nel senso classico del termine, ma è un progetto appunto che parte dal Veneto e che prevede l'impiego 2 giorni giorni alla settimana di un disoccupato che, per chi lavora nell'azienda, faccia la spesa, paghi le bollette, e per prenotarlo c'è una app apposita. Poi vi segnalo, visto che abbiamo appena parlato del Festival di Venezia, la copertina di Vanity Fair, che è dedicata a Kim Rossi Stewart, che è una figura un po' anomala nel panorama degli attori italiani, perché ha avuto tantissimo successo anche quando era giovane, però sembra prendersi molto i suoi tempi, non ha mai rincorso il film a tutti i costi, tutte le stagioni. E però a Venezia porta tra l'altro il suo secondo film da regista. Non c'è tre senza due, questo è il titolo dell'intervista. Torna al Festival di Venezia con la storia di un uomo che sogna la paternità ma non sa vivere in coppia. E poi però, come tutte le interviste di Vanity Fair, vanno anche molto sul personale, quindi Kim Rossi Stewart racconta anche della sua esperienza reale di coppia, quindi quella che è la donna che lo ha fatto innamorare e che ha capito subito, quando l'ha vista, di aver incontrato la madre di mio figlio. E ci spostiamo su Airone di agosto. Questi giornali di divulgazione scientifica, secondo me, sono sempre una miniera di curiosità. Ricorderete senz'altro, se ne è parlato tanto anche qui a Radio 24, dell'installazione artistica sul lago d'Iseo, il Floating Piers, dell'artista franco-bulgaro Jean-Claude Christo. È un'installazione a tempo che non tutti hanno avuto la possibilità di visitare. Erano delle passerelle galleggianti che davano proprio l'impressione di camminare sull'acqua del lago. Questo articolo ci racconta come è stato possibile costruirla, quindi questi 3 chilometri di passerelle, 16 metri di larghezza, 35 centimetri di spessore, e poi c'è anche una spiegazione su chi ha pagato. E si spiega che a farsi carico dell'installazione, costata circa 15 milioni, è stata la società dell'artista, che si chiama The Floating Piers, perché lui da sempre finanzia queste sue opere. Lui è per esempio un famoso impacchettatore, ha impacchettato moltissimo monumenti, praticamente le finanze in anticipo, ma sa già che poi ripagherà questo impegno con la vendita di tutto quello che ruota intorno all'installazione. Quindi forse anche un po' così sterili le polemiche, qualcuno di voi forse le avrà sentite, che sono seguite allo smantellamento dell'installazione. Si è detto che le autorità locali avevano immesso troppi soldi, o comunque erano stati impegnati troppe persone, per esempio per la sicurezza, e d'altro canto tutte le strutture turistiche del lago d'Iseo hanno avuto un grande beneficio da questa installazione. Passiamo a un altro settimanale di, comunque in qualche modo, di divulgazione, visto che in questi giorni con il terremoto abbiamo parlato tanto dei cani, delle unità cinofile, che sono importantissime in queste situazioni perché fiutano la presenza di persone ancora nascoste sotto le macerie. E su Argos di agosto c'è un articolo che ci spiega come anche il cane abbia una morale. E in realtà la domanda retorica è: ma il cane ha una morale? Senz'altro, a modo suo. La natura di predatore sociale, questo tecnicamente dal punto di vista dell'etologia, lo predispone allo sviluppo di una morale basata sul benessere collettivo, il che lo rende piuttosto simile a noi. Non tutti gli uomini hanno in mente il benessere collettivo, invece il cane in generale sì. L'Espresso, il magazine che da 3 numeri ed è diretto da Tommaso Cerno, e in occasione di questo cambio di direzione c'è stato anche un cambio di uscita, cioè esce alla domenica insieme a Repubblica, e per questo appunto io vi posso citare il numero che era in edicola domenica scorsa. Domani ce ne sarà uno nuovo. La copertina di questo era dedicata a tutte le violenze, forse, che passano un po' sottotono, che non vengono abbastanza indagate, se non in un modo così spot, potremmo dire, da inchieste come in questo caso dell'Espresso, ma ce n'è stata anche una molto interessante del Fatto Quotidiano qualche giorno fa, su quello che sta succedendo in Puglia, il caporalato, e che tra l'altro coinvolge soprattutto gli immigrati clandestini, e che vivono in condizioni di paura, oltre che igieniche, alimentari e di ogni altro genere, che sembrano veramente che li fanno sembrare veramente un nuovo tipo di schiavi. Il titolo di questa inchiesta è Apocalisse in Italia. Abbiamo detto il J. McInerney definito The New Yorker sulla copertina del venerdì, nel senso di il newyorkese per antonomasia, però c'è anche The New Yorker, la rivista. E la copertina dell'ultimo numero è, come sempre, fatta da un'illustrazione. Questa settimana è di Blit, che è un illustratore americano molto famoso, e ritrae Donald Trump che si protegge dalla pioggia utilizzando il suo complicatissimo e per certi versi misterioso toupet. Quindi, anziché essere lontano dalla fronte, in questo caso sembra il disegnatore ha fatto in modo che calasse e gli coprisse completamente la faccia, perché così almeno lo protegge dalla pioggia. Dall'interno vi segnalo un articolo molto interessante. Non so chi di voi compri questo settimanale, che purtroppo in Italia, poi negli Stati Uniti costa $7, poi quando arriva qui costa quasi, credo, 13 o 14 euro, quindi insomma è un po' un lusso, e poi è anche scritto in un inglese abbastanza sofisticato, e poi, come ricordo sempre, l'inglese scritto è molto più complicato dell'inglese parlato. E comunque, per chi avesse la possibilità di leggere appunto in lingua originale dal New Yorker, anche perché sul sito molte cose sono a pagamento, c'è questo interessante articolo di un medico che però scrive spesso per il New Yorker, che si chiama The Chase, la caccia, e che riguarda il famigerato virus Zika, che così tanto aveva impaurito prima dei giochi di Rio. Poi abbiamo capito che a Rio il pericolo non ci sarebbe di fatto stato, perché a Rio de Janeiro è inverno e le zanzare che portano questo virus non ci sono, come non ci sono negli inverni nostri occidentali. Però Zika esiste, e allora qui ci racconta la caccia appunto a trovare un vaccino, perché la malattia resta poi letale. E come sappiamo, come forse sapete, come abbiamo imparato, perché casi per fortuna non ne abbiamo ancora avuti, è il virus causa delle malformazioni ai feti, e che quindi le donne incinte sono particolarmente a rischio. Ora però ci fermiamo per una pausa sul traffico e ci ritroviamo per una seconda parte di segnalazioni da settimanali e mensili. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo a sbirciare, a guardare cosa ci siamo persi dei settimanali e dei mensili della scorsa settimana, e questa volta inizio con una notizia buona e una cattiva, ma sullo stesso argomento: il futuro dei giornali di carta, che ovviamente a me sta molto a cuore. E da una parte il Manifesto, nel suo speciale settimanale, ha pubblicato questo speciale editoria che si intitola così: fine corsa della carta. E ci sono una serie di considerazioni che naturalmente sono legate a dati reali, non sono semplice pessimismo, e che purtroppo indicano una cosa che noi tutti sappiamo bene, cioè che in effetti da quando c'è stata la rivoluzione di internet, e per quanto riguarda l'editoria in particolare dall'inizio degli anni 2000, i giornali di carta quotidiani, settimanali e mensili hanno perso lettori, hanno chiuso le edicole, tutti stanno cercando di trovare il giusto mix tra informazione online, che purtroppo è stata data gratis e quindi cambia completamente il modello di business degli editori, e invece l'informazione su carta, che nella maggior parte dei casi è ancora a pagamento. E allora qui, perché dicevo una buona notizia e una cattiva, il Manifesto decisamente pessimista, invece su Italia Oggi ho trovato questo articolo che mi ha molto rincuorata, di Roberto Giardina da Berlino, che spiega come gli austriaci siano dei fan dei quotidiani. Tengono tutti, tengono i quotidiani popolari, i domenicali e anche i settimanali. Anche lì la carta stampata accusa perdite, ma sono più lievi rispetto al resto d'Europa. Viva l'Austria e gli austriaci! A proposito di, invece, perché poi negli anni si è anche delineata una tendenza appunto di maggior sofferenza dei quotidiani tradizionali, mentre mensili e settimanali, quelli che hanno resistito comunque a una moria che c'è stata, in realtà questo è un trend che parte poi in particolare dagli Stati Uniti, resistono. E allora parliamo del nostro magazine, il magazine Il, che viene allegato una volta al mese al Sole 24 Ore. Questo è l'ultimissimo numero, che è uscito ieri, lo trovate in edicola tutto il mese. Poi tra due settimane ci sarà, anche parzialmente sovrapponendosi, l'altro magazine, che è How to Spend It, sempre allegato al Sole 24 Ore di venerdì. Ma questo numero di Il è molto interessante perché è tutto dedicato alla provincia italiana, e infatti si intitola Viaggio nella formidabile provincia italiana. E il direttore di Il, Christian Rocca, spiega nel suo editoriale A 60 anni dal viaggio in Italia di Guido Piovene, il famoso libro appunto di Guido Piovene, e a 2 dall'omologo Nuovo Viaggio in Italia del direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24 Roberto Napoletano, abbiamo deciso di mandare un nostro scrittore e un nostro fotografo, Michele Masneri e Fabrizio Annibali, in giro per la provincia italiana a raccontare con parole e immagini quanto sia cool la vita fuori dalle metropoli. Buon divertimento. E a proposito di supplementi invece settimanali dei quotidiani, anche in questo caso vi segnalo quello di domenica scorsa del Corriere della Sera, che sta poi in edicola tutta la settimana. Domani avremo quello nuovo, quello del 21 agosto, e aveva come sempre la prima pagina dedicata, affidata a un artista, in questo caso Tommaso Vinga, e poi all'interno molti articoli interessanti. Quello che a me ha incuriosito di più è di Giuseppe Remuzzi, che è un medico ma anche un grandissimo divulgatore, che ci spiega in questo articolo intitolato "Sei socievole? Ecco il segreto", che l'attitudine alla condivisione, che è poi quello che ha contribuito all'affermazione dell'Homo sapiens, dipende dalla stessa molecola, che abbiamo battezzato interferone gamma, prodotta dai linfociti T, cioè da un tipo di globuli bianchi, che combattono i microbi. È la prova che cervello e sistema immune dialogano. Qui naturalmente è l'articolo di uno scienziato, quindi è secondo me molto attendibile, però gli scenari poi futuri di questo possono essere molteplici. Una cosa però credo che l'abbiamo sperimentata tutti sulla nostra pelle, cioè che comunque esiste un collegamento tra come ci sentiamo, quindi il cervello, e come reagisce il nostro corpo, per esempio difendendosi dalle malattie, quindi come reagisce il nostro sistema immunitario. Spesso le due cose sono collegate. Ora ci sarebbe proprio una vera conferma a quella che per tutti noi è un'intuizione, cioè che quando si è molto tristi si diventa più vulnerabili anche fisicamente e viceversa. La copertina del nuovo numero di Internazionale, in edicola da ieri, è dedicata a un articolo che è apparso sul Guardian e che Internazionale ha interamente tradotto, sul reddito che viene definito in vari modi: reddito di cittadinanza, welfare universale. Comunque il titolo scelto da Internazionale è "Come minimo un reddito per tutti. Se ognuno ricevesse dei soldi anziché anche senza lavorare, il mondo sarebbe migliore. Ecco perché". E naturalmente l'articolo del Guardian, l'autrice di questo articolo, è favorevole a questa misura. E vi segnalo però anche l'editoriale di Giovanni De Mauro, il direttore Internazionale, che si intitola "Differenza". Quando un fatto comincia a somigliare a qualcosa che vi sembra vero, diventa difficile distinguere tra i fatti che sono veri e i fatti che non lo sono. Il lungo articolo che pubblichiamo in questo numero pone in modo forte e convincente una serie di questioni fondamentali. In primo luogo sul perché i mezzi di informazione siano diventati, spesso loro malgrado, strumenti nelle mani dei populisti in Europa e negli Stati Uniti. Al centro c'è l'indebolimento dell'importanza sociale della verità, di una visione condivisa, di un ampio consenso sullo svolgimento dei fatti, anche a partire da opinioni radicalmente diverse. Il giornalismo è nel pieno di una grande transizione che non si è ancora conclusa, dalla pagina stampata di Gutenberg alla pagina web di oggi. Secondo l'articolo, viviamo nell'era della post-verità e l'accelerazione del ciclo dell'informazione, la cascata di informazioni, sta finendo per sommergerci. L'informazione spazzatura, quella che cerca solo di acchiappare più click e quindi più pubblicità, è come il cibo spazzatura dei fast food. Sul momento è irresistibile, ma un minuto dopo è nauseante. Naturalmente la grande transizione di oggi porta con sé incredibili opportunità. E per fortuna un antidoto alle notizie spazzatura c'è, però richiede sforzo e determinazione, innanzitutto da parte dei giornalisti. In questo articolo, infatti, l'autrice scrive: "Sono convinta che la differenza tra il giornalismo buono e quello cattivo sia il lavoro. Il giornalismo più autorevole e apprezzato è quello in cui si sente tutto l'impegno che c'è dietro, la fatica fatta per il lettore, qualunque sia il tema trattato, grande o piccolo, serio o leggero". E poi, naturalmente, io poi sono un esempio lampante di questo. Si può leggere di tutto, anche cose leggerissime. Abbiamo citato insomma anche appunto settimanali che si dedicano soprattutto alle celebrities come Vanity Fair, dove peraltro ci sono anche delle inchieste interessantissime in ogni numero. Quindi alternare questa leggerezza a meno leggerezza di argomenti Basta che sia sempre fatto tutto con qualità, qualità di scrittura, qualità di scelta delle foto, impegno, perché anche per intervistare una celebrity bisognerebbe fare molta ricerca su quello che ha detto, quello che ha fatto, per farle delle domande, almeno si spera, un po' diverse da quelle che si fanno sempre. Ma per tornare a un argomento molto importante, che è quello del dopo Olimpiadi, su Internazionale trovate anche questo articolo, Il brusco risveglio di Rio de Janeiro. Ora che i giochi olimpici sono finiti, la città torna a fare i conti con una realtà difficile: violenza fuori controllo, disuguaglianze tra centro e periferie e mancanza di infrastrutture. E di questo si discuterà molto, anche perché qui in Italia non abbiamo ancora deciso se continuare con la candidatura di Roma ai giochi del 2024. Quelli del 2020 saranno a Tokyo, e poi c'era questa candidatura che era già in fase abbastanza avanzata col sindaco precedente, Virginia Raggi, nuovo sindaco di Roma del Movimento 5 Stelle. In campagna elettorale aveva detto di essere contraria e per ora è rimasta molto coerente con questa sua posizione, però ci sono anche pressioni in verità per cercare comunque di vedere il lato positivo di un evento come le Olimpiadi. Non credo che nessuno sappia come andrà a finire, appunto, se questa candidatura verrà portata avanti o no. Passiamo al settimanale Origami, quello che viene allegato alla stampa, che ogni settimana ha un tema diverso. Questa settimana il tema era Germania-Italia 4-0, e come forse ricorderete, perché ve l'ho già spiegato, ma poi forse l'avete comprato, sfogliato anche voi, si chiama Origami perché in realtà è un grande foglio piegato che si può sfogliare, ma in questo modo si può sfogliare solo in parte, oppure bisogna stenderlo su un piano di lettura, e viene fuori una specie di puzzle di articoli legati da uno stesso tema, in questo caso Germania-Italia. E ce ne sono moltissimi di interessanti. Mi sta a cuore particolarmente quello di Edmondo Berselli, che è un grande scrittore e saggista scomparso qualche anno fa, e il suo articolo si intitola Il giorno che Ferrari diede la polvere a Mussolini. E questo brano è tratto da quel gran pezzo dell'Emilia, un libro, era emiliano, Berselli, pubblicato nel 2004, e tra l'altro è stato scrittore, saggista, ma anche dirigente di una casa editrice, Il Mulino. Ha scritto per tanti quotidiani e anche per La Repubblica, e sempre con quella leggerezza un po' calviniana, però anche affrontando temi importanti, come in questo caso era anche la Ferrari come esempio di industria che fa invidia a tutti una volta e ancora adesso. E poi sappiamo, tra l'altro, che appunto la Ferrari si è appena quotata anche alla borsa di New York, quindi è un'azienda che ha fatto veramente tanta strada anche come struttura societaria. Dicevamo un po' di leggerezza, ecco allora la copertina di Grazia, che è dedicata a Barbara D'Urso, che compie 59 anni, sta rilasciando una quantità di interviste incredibili. Non so se poi farà lo stesso quando compirà il compleanno tondo, quello dei 60. In ogni caso, insomma, qui racconta. E i suoi 59 anni vengono definiti tutti veri, e insomma lei si unisce alla schiera di donne che, pur dimostrando molti meno anni di quelli che hanno, asserisce, crediamole, di non essersi assolutamente ritoccata, di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica, di essersi semplicemente sempre molto curata. Vi segnalo poi una cosa molto particolare sul numero di GQ di settembre, che però è datato settembre, ma l'ho trovato in edicola. C'è in copertina una foto bellissima di una bellissima modella che è Irina Shayk, fotografata da un fotografo molto famoso che è Mario Sorrenti. Ma la cosa interessante è che l'ha intervistata, per così dire, si tratta in realtà più di un colloquio, Riccardo Tisci, che è uno degli stilisti più di maggior talento della sua generazione, ha poco più di 40 anni, ed è il direttore creativo di Givenchy, quindi un marchio storico francese, un italiano alla guida di uno storico marchio francese. È interessante questo colloquio. È sempre interessante vedere come, appunto, magari uno stilista giochi, potremmo dire, a fare il giornalista, e forse alla fine tira fuori dalla intervistata cose che magari noi giornalisti non riusciamo a tirar fuori. Era l'ultima segnalazione per oggi, ci sarebbero ancora tantissime cose. Io spero di aver incontrato un po' i vostri gusti, ho stimolato un po' la vostra curiosità. Buon sabato e ci risentiamo lunedì con i quotidiani.